La storia ci ricorda che di tanto in tanto sorgono dei dittatori. Chi è un dittatore? Il dizionario definisce tale colui che esercita la propria autorità in modo dispotico e intransigente, senza ammettere critiche, opposizioni, discussioni o ingerenze di alcun genere. È dunque un tiranno, un prepotente. Un dittatore non piace a nessuno, neppure alle persone che favorisce, ed egli stesso non ama chi gli è sottomesso. Come disse un grande scrittore cristiano, i condizionatori odieranno i condizionati, C.S. Lewis. Il dittatore non si evidenzia subito come tale, perciò quando diventa manifesto è ormai troppo tardi per opporsi alla sua ascesa. Basti pensare a Nerone. Iniziò il suo regno a 17 anni, sotto i migliori auspici. Influenzato dal filosofo Seneca, il giovane imperatore restaurò il potere del Senato, riorganizzò l'amministrazione dello Stato, riconobbe anche agli schiavi liberati il diritto di lavorare per essa e si rese protagonista di molti atti di clemenza, dei quali, durante il regno dei suoi predecessori, si era perduto il ricordo. Ma a 22 anni uccise la madre, a 25 uccise la prima moglie, a 28 la seconda e il filosofo Seneca, assieme ad altre persone. Noi potremmo credere, perché siamo dei cristiani, che l'argomento ci interessi relativamente, invece ci riguarda molto più di quanto non si creda. Anche la scrittura ci presenta dittatori spirituali, per non parlare del dittatore per eccellenza, che deve ancora manifestarsi, l'anticristo. Notiamo che nel campo politico, come in quello religioso, le caratteristiche del dittatore sono le stesse. Cambia il campo di azione, ma la metodica e la filosofia hanno tratti in comune. Credo quindi che sia utile esaminare queste caratteristiche almeno per quattro motivi. Il primo, per vedere se anche noi ci comportiamo nello stesso modo. Il secondo, perché non lo aiutiamo a diventare tale. Il terzo, perché possiamo identificarlo. E infine, perché, come comunità di figli di Dio, non cadiamo in una simile trappola. Poiché è breve, leggiamo tutta la terza lettera di Giovanni, anche per avere una visione completa del suo discorso. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo in verità, carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità. In quanto tu cammini in verità, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio, in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per essere collaboratori nella causa della verità. Ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Per questo, se verrò, ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole, e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Demetrio ha ricevuto testimonianza da tutti e dalla verità stessa, e anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è verace. Avevo molte cose da scriverti, ma non intendo scrivertene con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto, allora ci parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno. Le mie riflessioni sul testo hanno offerto le seguenti indicazioni circa la figura del dittatore. 1. Un dittatore riveste una carica di comando. Questa è la caratteristica più ovvia, perché se non si è alla guida non si può imporre le proprie scelte. Qualcuno pensa che Diotrefe fosse un anziano, ma anche se non lo fosse stato, aveva comunque nell'ambito della Chiesa una carica che gli permetteva di esercitare una certa autorità. Hitler, tipico esempio di dittatore, era figlio di un doganiere e come tale non avrebbe mai espresso in modo totale il suo autoritarismo. Solo quando venne eletto cancelliere, a 44 anni, poté esprimere e realizzare le sue idee tiranniche. Questa prima caratteristica in un certo senso ci coinvolge tutti, perché se non rivestiamo l'autorità di conduttore di chiesa, rivestiamo comunque l'autorità di genitore o di marito. 2. Il dittatore è uno del popolo. Generalmente il dittatore è autoctono, specialmente nel campo religioso. Nessuno, che sia un cristiano, accetterebbe alla guida una persona di un'altra fede, come per esempio un buddista o un musulmano. E così viceversa. Lo stesso Diotrefe non avrebbe potuto esercitare nessuna violenza se fosse appartenuto ad un'altra fede o se fosse stato membro di un'altra chiesa. Il pericolo più grande viene quindi dall'ambiente in cui viviamo, come, del resto, disse Paolo ai presbiteri di Efeso. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Fino a quel giorno Paolo aveva protetto, con la sua presenza, la chiesa di Efeso, ma, dopo la sua partenza, alcuni si sarebbero uniti a loro per signoreggiare. Il dittatore partecipa alla vita di chiesa, ma non è identificabile come tale, perché generalmente ha qualità e doni spirituali che fanno di lui un uomo rispettato, onorato, al di sopra di ogni sospetto. Nel 1937 una rivista intesse le lodi di Mussolini per essersi raccomandato con tutti i dirigenti scolastici perché il Nuovo Testamento fosse letto e usato durante gli orari scolastici. Sempre in quel periodo il mondo evangelico tedesco prestava grandissima attenzione ad ogni segno di religiosità del Führer. Rimase impressionato dalla sua preghiera pubblica il giorno dell'insediamento, lo cita ad esempio per la sua rettitudine morale. Non fuma, non beve, pratica una rigida astinenza sessuale, esulta nel sapere che egli porta sempre addosso una piccola copia del Nuovo Testamento. Hitler condannò con decisione l'astrologia e non aveva simpatia per i culti pagani germanici, in cui si dilettavano alcuni suoi stretti collaboratori. Queste prese di posizioni di Hitler indussero alcuni leader evangelici a ritenere che opporsi al suo governo era opporsi al disegno divino. 3. Il dittatore è un carismatico. Alcuni studiosi pensano che Diotrefe cacciasse i credenti fuori dalla Chiesa per la sua condizione sociale o avesse una cultura superiore. Forse, ma ciò non basta. Tutti i credenti hanno dei doni. Il dittatore, oltre ad avere attributi quali zelo, dedizione ed interesse per l'individuo, deve averne uno in particolare. Se possiede solo il dono di evangelista, di esortazione o comunque una capacità che non abbia influenza sulla moltitudine, non potrà mai diventare un tiranno. Il carisma peculiare di un dittatore deve essere l'oratoria, mediante la quale trascina le folle, affascina la gente, cattura la simpatia di chi l'ascolta, incanta i semplici, infonde certezza. In breve, deve essere convincente. Lo scrittore Primo Levi, testimone sopravvissuto al lager di Auschwitz, scrive nel suo libro «Se questo è un uomo, occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici. Dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà. Poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti». È meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. E meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate. Unito al carisma dell'oratoria, il dittatore deve avere un'altra caratteristica per ingannare la gente: l'ambiguità nel parlare. I suoi discorsi devono essere, sì, persuasivi, ma devono anche lasciare all'ascoltatore la possibilità di interpretarli a modo suo, o perlomeno, per quanto sembri assurdo, chi ascolta deve arrivare ad essere d'accordo, anche se non sa su che cosa. Un giorno ho incontrato una credente, raggiante di gioia, dopo aver ascoltato un sermone di un fratello. Era la prima volta che lo sentiva parlare e ne era rimasta affascinata, toccata. «Mi fa piacere», le dissi. «Su cosa ha predicato?» «Ma», mi rispose dopo aver riflettuto un po', «non ho capito nulla, però parla così bene». Quella sorella era stata catturata psicologicamente, aveva preso una cotta spirituale. La strada era preparata perché quel fratello diventasse il suo dittatore. Dobbiamo diffidare di tutti coloro che sono spesso accondiscendenti, che cercano sempre l'accordo, che non hanno nemici. Il detto «il carattere di un uomo si conosce dai suoi nemici» è molto significativo. Il dittatore, prima di diventare tale, deve avere una cerchia di persone che ha conquistato, psicologicamente, accondiscendendo. Se non vuoi diventare un dittatore, se non vuoi favorire la dittatura, sii chiaro, leale, aperto, assicurati che la gente comprenda quello che vuoi dire. Il confronto aperto non produce dittatori. 4. Il dittatore è sicuro di sé. Il dittatore è dogmatico, eccessivamente sicuro di sé. Com'è normale avere delle certezze, è anche ovvio che, senza questa caratteristica, nessuno può dominare gli altri. Il suo comportamento infonde sicurezza, per cui le persone, soprattutto quelle deboli e insicure, sono attratte dalla sua personalità. Diventa il punto focale della vita dei suoi seguaci. Non è a caso, quindi, che un tale personaggio, specialmente nel campo spirituale, si presenti proprio in un momento di sbandamento e di insicurezza spirituale. Egli si presenta come colui che ha la soluzione ai problemi irrisolti, come colui che è meglio sintonizzato con Dio di chiunque altro. In fondo non è male avere una risposta ai problemi, ma il dittatore lo si nota quando i credenti diventano suoi dipendenti, quando quello che fa non stimola le persone a seguire Cristo. Una forte personalità vissuta per la carne attira gli uomini e non spinge le persone a sottomettersi alla volontà di Cristo. La sicurezza di sé porta il dittatore ad avere un comportamento religioso che non si preoccupa dei principi, per quanto sublimi, ma di seguire quella che lui crede sia la volontà di Dio. Ma il peggio non è sbagliare, è essere sicuri di non sbagliare. Crederci al centro della volontà di Dio, senza la minima ombra, produce i più nefasti errori. Queste riflessioni mi portano a ricordare un'esperienza. Ho conosciuto un ragazzo che, dopo aver vissuto con dei figli di Dio, ha scelto di seguire la religione del cattolicesimo. In un confronto sereno, dove egli riconosceva il contrasto tra la parola di Dio e il cattolicesimo, riconobbe di essersi sottomesso completamente alla decisione della religione cattolica e di ubbidire ad essa, anche se ciò contrastava la sua coscienza. La sua religione era per lui il suo dittatore. 5. Il dittatore è prepotente con chi la pensa diversamente. Il tiranno, quando vede che i suoi obiettivi incontrano delle opposizioni, arriva ad usare il pugno di ferro. Nell'ambito religioso, questo modo di procedere è etichettato come volere di Dio o come atto di spiritualità, fino ad arrivare a dichiarare la guerra santa, Michea 3, 5. La conduzione pastorale del dittatore tende ad avere un controllo totale dei suoi seguaci. Diotrefe non riceveva i fratelli e impediva ai credenti di esercitare l'ospitalità verso i missionari. Aveva presentato una motivazione malvagia? Assolutamente no, altrimenti i fratelli non gli avrebbero ubbidito. Che cosa avrà raccontato Diotrefe agli altri credenti perché questi accettassero la sua dittatura? Molto probabilmente avrà pronunciato dei discorsi del genere: «Il Signore è santo e vuole che noi siamo santi. Quindi ritiriamoci da tutto quello che è peccato, oppure se vuoi avere comunione con me, non puoi averla con chi io non l'ho». Nonché, è che dire una motivazione del genere disarma. Ma, L'isolamento è un'altra forma di controllo del dittatore, per cui il rapporto con amici, parenti, coniugi, bambini, genitori viene spezzato o seriamente pregiudicato. È vero che il dittatore sia responsabile del suo comportamento, ma lo sono anche coloro che permettono una conduzione dittatoriale. Diotrefe cacciava alcuni dalla Chiesa, perché tutta la Chiesa non si era opposta al suo operato. Un solo credente può fare ben poco. Se Gaio da solo avesse denunciato l'operato di Diotrefe, ciò sarebbe stato interpretato come una questione personale tra lui e Diotrefe. La responsabilità di ognuno viene messa chiaramente in evidenza dall'Eterno Dio al popolo di Israele. Cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente. I sacerdoti governano agli ordini dei profeti. E il mio popolo ha piacere che sia così. Geremia 5, 30-31. Il popolo quindi non era esente dalla responsabilità della situazione spirituale. Era colpevole, quanto i profeti e i sacerdoti. Quando una chiesa cammina nell'errore, ogni membro è responsabile. Anche se in una comunità vi è un corpo di anziani, esso è, di solito, composto da persone che sono particolarmente devote al leader e che mai dissentiranno da lui. Ognuno, quindi, è chiamato a vigilare, perché certe tendenze dittatoriali non compaiano nel collegio degli anziani. Purtroppo, questa caratteristica del prepotente è presente anche nell'ambito del matrimonio. Vi sono spose che giornalmente subiscono violenze, stupri, costrizioni di ogni genere. Un marito può evitare questo errore se è sensibilmente preoccupato per il bene della sua compagna, non imponendo nulla che possa turbare la sua coscienza. Lo stesso vale anche per il genitore. Egli richiederà di essere ubbidito, ma deve guardarsi dall'abusare della sua autorità. Equilibrio, alquanto difficile. 6. Il dittatore raggiunge gli obiettivi, a qualsiasi prezzo. Senza obiettivi non si può costruire nulla. Il dittatore è una persona che sa dove vuole arrivare e tutta la sua vita è tesa ad ottenere i risultati prefissati. Ma i mezzi usati per ottenerli tradiscono il suo vero carattere. Egli infatti non guarda le anime, ma predilige le regole, le mete. Non importa per lui se qualche figlio di Dio rimane scandalizzato, se, come Diotrefe, arriva ad impedire ai fratelli di riceverne altri, l'importante è che i suoi piani siano realizzati. Egli non è come il buon pastore che sacrifica la sua vita per le pecore, lascia le 99 per cercare quella smarrita, ma sacrifica la vita delle pecore per salvare i suoi obiettivi. Un dittatore è un mercenario, un falso pastore. C. È diversità di spirito e di intenti fra il pastore e il mercenario. Il primo ama il gregge, fino a dare se stesso, se fosse necessario. Il secondo ama se stesso, fino a consumare il gregge, anche se non è necessario. Il vero pastore è amato e aiutato dal proprio gregge. Il falso pastore esige l'aiuto del gregge, che non è il suo, fino a dissanguarlo. Il vero pastore continua ad amare e aiutare il gregge che Dio gli ha affidato, anche se non è ricambiato nell'amore, anche se non riceve da questo alcun aiuto. Il falso pastore, la cui ambizione non è appagata dal gregge, fa presto ad abbandonarlo, a percuoterlo, a straziarlo ed infine a fuggire. E sicuramente da disprezzare quel pastore che, per giustificare la sua condotta, si nasconde dietro al gregge. Solo un vero amore per le anime può evitare un comando autoritario e di diventare dei lupi. Per raggiungere i suoi obiettivi, il dittatore deve anche manipolare i suoi seguaci. Per manipolazione si intende il ricorso di forze esterne per ottenere un determinato comportamento. Può presentarsi come il padre spirituale per eccellenza, per cui ogni membro deve rendergli conto del suo operato. Il dittatore, nell'ambito del cristianesimo, userà sempre la Bibbia per dimostrare che le sue decisioni e le sue direttive vengono direttamente da Dio. Metterlo in discussione equivale a mettere in questione Dio stesso. 7. Il dittatore è estremista con le verità. Il dittatore non può presentarsi sostenendo delle menzogne perché, soprattutto nel campo spirituale, nessuno lo seguirebbe. Egli esporrà grandi verità, ma avrà la caratteristica di portarle all'estremo. L'uso eccessivo, o il cattivo uso di qualcosa di buono, si trasforma in abuso. Come dicevano i romani, summus jus, summa injuria, il diritto più perfetto può costituire la peggiore ingiustizia. Il dittatore insisterà, in modo particolare, solo su due o tre principi, i quali, in ogni messaggio, verranno sottolineati per provocare un lavaggio del cervello. Con i suoi discorsi, il dittatore italiano dell'ultima guerra era riuscito a convincere gli italiani che la guerra fosse giusta. Nel campo religioso, il dittatore porrà enfasi soprattutto sulla giustizia di Dio, incuterà un terrore spirituale con frasi apparentemente indiscutibili, quali: gli anziani sono ordinati da Dio. Chi disubbidisce agli anziani disubbidisce a Dio. A causa di queste asserzioni, la sua autorità e le sue idee non potranno essere messe in questione. Ciò che afferma ha valore finale. Nessuno avrà quindi il coraggio di opporsi perché, quando verrà il momento, si sentirà in colpa. I membri che vorranno lasciare la Chiesa lo faranno con grande difficoltà, tramite un processo doloroso a livello sociale, psicologico ed emotivo. È vero che ogni credente deve essere sottomesso ai suoi superiori, ma la sottomissione è richiesta all'ufficio, non alle opinioni di chi lo esercita. Un credente sa di avere un governo dittatoriale quando chi governa suscita dei sensi di colpa, quando avverte una certa oppressione, quando la sua ubbidienza è improntata sull'intimidazione, quando non è libero di esprimersi, quando l'enfasi dei messaggi è sulle minacce del castigo di Dio per i ribelli, quando si insiste sempre sulla sottomissione, sintomo che l'autorità esercitata non è stata conferita da Dio. Mi ha sempre fatto impressione ciò che leggo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 88, in merito alla sottomissione. Il Magistero della Chiesa si avvale in pienezza dell'autorità che gli viene da Cristo quando definisce qualche dogma, cioè quando, in forma che obbliga il popolo cristiano ad un'irrevocabile adesione di fede, propone verità contenute nella rivelazione divina. Comprendo la necessità dell'obbedienza, ma quando si obbliga il credente ad un'irrevocabile adesione di fede, credo che siamo già entrati nell'ambito di uno spirito dittatoriale. Anche il marito, quando obbliga la moglie ad una sottomissione dovutagli, evidenzia di non avere autorità e dovrebbe quindi rivedere il suo modo di agire. Ugualmente, i genitori dovrebbero avere con i figli un rapporto basato sull'amore, non sul terrore. Se l'autorità dei genitori è tirannica, appena saranno grandi, i figli si ribelleranno e assisteremo così al fenomeno di figli di credenti che non vogliono più sapere nulla di Dio. 8. Il dittatore sarà venerato dai seguaci. Per sapere se una persona ha le caratteristiche di un dittatore, occorre osservare coloro che lo seguono e gli sono sottomessi. La sua forte personalità produce nei suoi seguaci una miscela di adorazione e paura, al punto che diventa peccato rilevare in lui le cose che non vanno. Come disse Alberto Moravia, la dittatura è uno stato in cui tutti hanno paura di uno e uno ha paura di tutti. Nessuna persona, leale e obiettiva, può diventare amica dei seguaci del dittatore, perché quando si parla della sua persona bisogna avere un altro metro. Secondo loro, egli è il capo, provano per lui una devozione e un affetto immensi, egli è degno di essere seguito e ubbidito ciecamente. Egli accetta consigli, pareri, opinioni, ma si ribella contro tutti quelli che rovinano la sua immagine, la sua reputazione. Il dittatore ha generalmente un'opinione alterata di se stesso, e i suoi seguaci non fanno nulla per cambiarla, anzi, vivono all'ombra della sua forte personalità. Ci si chiede se dittatori come Nerone, Mussolini, Hitler siano stati del tutto normali, ma lo stesso interrogativo grava sui loro seguaci. Forse una risposta a tali interrogativi viene dal medico psicologo Paul Tournier. Tutti ammettono che nel cuore umano ci è bisogno di amare. Ciò che io sostengo è che ci è anche, allo stesso tempo, nello stesso cuore, un bisogno di odiare e di uccidere. Non si potrebbero manipolare gli esseri umani se già non vi fossero nel loro intimo i sentimenti che vengono risvegliati dal libro Violence et Puissance. Solo la coscienza dei nostri limiti, della nostra natura peccaminosa e l'orrore di diventare una persona autoritaria possono frenare in noi l'inclinazione a cadere in un peccato così devastante quale l'autoritarismo. Allora ci si chiede come mai un dittatore, nonostante il suo carattere così poco raccomandabile, arriva ad essere tale. La ragione è ovvia. Egli è un uomo di comando, è un carismatico, ha obiettivi precisi, dà sicurezza, predica una mezza verità e i suoi seguaci sono devoti. Cosa si vuole di più? Beh, qualcosa manca, la libertà. Sì. Dove vi è autoritarismo si possono avere tante cose, ma l'uomo non è soddisfatto se gli manca il dono più grande che ha avuto da parte di Dio, cioè la libertà. Ecco una barzelletta che esprime bene questo concetto. Siamo in un paese totalitario. Abbiamo sentito dire che vuoi andare in Occidente. Non ti diamo da mangiare? Non ti diamo da lavorare? Non hai una famiglia? Non hai un partito? Non hai da vestirti? Allora perché vuoi andare in Occidente? Perché là posso lamentarmi. L'uomo ha bisogno di autorità, non di autoritarismo. La Chiesa ha bisogno di guida, non di tirannia. La donna ha bisogno di protezione, non di prepotenza. I figli hanno bisogno di sicurezza, non di inflessibilità. L'amore per il potere è profondamente radicato nell'uomo. La smania di primato è diventata un gioco spaventoso per le coscienze, una fonte di divisioni, di scismi, di scandali enormi, un'occasione di guerre tra il potere religioso e quello civile. Quante scomuniche, quante persecuzioni, quante torture e uccisioni fisiche e morali per la smania di primato. L'eternità rovescerà monti di sentenze pronunciate dall'intolleranza, dall'ignoranza, dall'orgoglio di certi cristiani. Anche i discepoli di Gesù non erano immuni dal veleno del potere. Ciò che leggiamo nel Vangelo di Luca, al momento dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, ci fa molto riflettere. Allora egli disse loro: «Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio». Poi prese il calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna, finché il regno di Dio sia venuto». Poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito». Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro: chi di loro avrebbe fatto questo? E tra di loro sorse anche una contesa, intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra di voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola? O colui che serve, non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Luca 22:15-27. Gesù ha appena annunciato ai suoi che uno di loro lo avrebbe tradito. I discepoli subito si chiesero chi di loro fosse il peggiore e il migliore, e non certo per curiosità. Gesù aveva appena parlato della sua morte, e i discepoli erano più interessati a conoscere il grado di autorità che avrebbero avuto, che essere dispiaciuti di ciò che stava succedendo al loro maestro. Chi avrebbe preso il posto di guida quando il loro maestro non c'era più? La sete del potere acceca i bisogni degli altri, rende insensibili verso le sofferenze altrui. Gesù coglie l'occasione di questa sete di potere per far presente che non è sbagliato l'esercizio dell'autorità sulla terra e neppure nella Chiesa, solo che nell'uomo vi è il concetto che potere sia sinonimo di signoreggiare. Gesù corregge il tiro. Tra di voi non ha da essere così, cioè il modo di esercitare l'autorità nella Chiesa non deve prendere il modello del mondo. Mentre nel mondo per condurre bisogna dominare e imporsi con il pugno di ferro, nella Chiesa la conduzione viene espressa nel principio scritturale: il maggiore fra voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Gesù non disprezza coloro che hanno ambizioni, che vogliono essere grandi. Marco 10:35-45 non disapprova questa nostra inclinazione, dataci da Dio stesso, ma ne definisce i limiti. Se ci sono poche persone che servono, è perché sono pochi coloro che vogliono guidare, sono pochi coloro che vogliono essere grandi, pochi coloro che vogliono essere primi, ma, secondo i parametri di Dio, servire per sentirsi importanti, per dominare, per avere ogni situazione in pugno, è dettato dalla nostra natura, ma servire con uno spirito di umiltà, con l'intenzione di voler essere a disposizione del prossimo, è il risultato di una vita condotta dallo Spirito Santo. Il Vangelo di Giovanni riporta un episodio di immenso valore. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Il lavaggio dei piedi era necessario in Palestina, poiché le strade erano polverose e le persone indossavano sandali senza calze. Era un segno di onore per l'ospite che uno dei servi lavasse i piedi di colui che entrava nella sua casa, mentre era un segno di mancanza di ospitalità non provvedervi. Sovente erano le donne a lavare i piedi dei mariti e i figli a lavare i piedi dei genitori, anche se, nella maggior parte dei casi, ciascuno provvedeva da solo a lavarsi. Perché Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli? Era forse un gesto che l'umiliava? Io non credo. Non a caso il discepolo che Gesù amava fece queste premesse. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Gesù, il Maestro, lavò i piedi ai suoi discepoli perché sapeva di avere autorità e potere. Giovanni 13:3. Nessun gesto di umiliazione, ma di gloria. Gloria perché chi depone spontaneamente una corona per rivestirsi dei cenci di un povero dimostra una grandezza di animo e di dignità senza pari. E così è chi ha l'autorità che viene da Dio non ha paura di perdere una posizione anche se lascia un posto di comando. Non teme di perdere la reputazione per amore del prossimo. Ma chi impone la propria guida, soprattutto sotto una forma di amore e di servizio, è obbligato a signoreggiare. Come possiamo conoscere se siamo dei conduttori tiranni, dei mariti prepotenti, dei genitori autoritari? Ce ne accorgiamo dai risultati. Se coloro che ci sono soggetti sono edificati, si trovano a loro agio, ci seguono con amore, se desiderano sedersi alla nostra ombra e il nostro frutto è dolce al loro palato, Cantico dei Cantici 2:3, allora possiamo anche commettere degli errori come autorità, perché tutti falliamo in molte cose e in molte maniere, ma non diventeremo mai dei tiranni, dei dittatori. Novembre 1987. Ellero,